GR Europa. Buongiorno da Sergio Nava, benvenuti a questa edizione di GR Europa. In apertura subito una notizia dell'ultima ora che arriva da Dublino. È sleale accusare l'Unione Europea davanti all'opinione pubblica per l'austerity, a dirlo, è il presidente della Commissione José Manuel Barroso in una conferenza stampa tenuta a Dublino. Iniziamo il 2013 in una situazione nettamente migliore rispetto all'anno scorso. Il 2012 è stato un anno di risultati positivi per la zona euro, a riferirlo il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker parlando al Parlamento europeo. Je voudrais dire que l'année 2012... Il presidente dell'Eurogruppo, che state ascoltando, ha però precisato che i tempi attuali sono difficili. Non dobbiamo dare all'opinione pubblica l'impressione che il peggio sia alle nostre spalle, perché ci sono ancora molte cose da fare. La situazione della disoccupazione è drammatica, ha detto Juncker. Avevamo detto che l'euro avrebbe riequilibrato la società, invece coloro che non hanno lavoro aumentano. Occorre ritrovare la dimensione sociale dell'Unione con misure come il salario minimo in tutti i paesi della zona euro, ha aggiunto il presidente dell'Eurogruppo. Come da previsione, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariato il costo del denaro, il tasso di riferimento è fermo allo 0,75%. Nella consueta conferenza che ha fatto seguito al direttivo di Francoforte, il presidente Draghi ha dichiarato che la crescita economica continua ad essere debole, ma nel corso del 2013 è attesa una graduale ripresa. I rischi per le prospettive economiche dell'Eurozona continuano a essere orientati al ribasso, ha ribadito Draghi, secondo il quale nel corso del 2013 l'inflazione è attesa in calo sotto la soglia del 2%. Ma dichiarazione importante dello stesso Draghi: non stiamo pensando a un'uscita dalle misure straordinarie varate dalla BCE, così ha sottolineato, ciò avverrà quando sarà naturale. Infine, ha detto Draghi, la supervisione unica europea delle banche affidata alla BCE è una mossa cruciale per rafforzare il sistema e procedere verso l'integrazione. Il costo del denaro ai minimi spinge al ribasso il prezzo dei mutui, non in Italia però, la conferma arriva dalla stessa Eurotower. Le famiglie italiane che riescono ad accedere ai finanziamenti per le abitazioni versano in media il 4,05% contro una media del tasso europeo del 3,35%. Tra le principali cause l'elevato spread applicato dagli istituti di credito italiani. Parliamo ora di fondi europei. Tutti i programmi operativi dei fondi, tranne uno, hanno superato i target e non perderanno quindi risorse. Ad affermarlo il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca, sottolineando che 51 programmi operativi su 52 superano i target di spesa. La scure del disimpegno automatico scatta solo per il programma attrattori culturali, naturali e turismo, che perde 33,3 milioni di euro, mentre per tutti gli altri programmi in ritardo la forte accelerazione compiuta nell'ultima parte del 2012 e la realizzazione del piano di azione e coesione hanno consentito di conseguire e superare i target, così ha specificato il ministro Barca. Era questa l'ultima notizia di questo GR europeo, curato da Valeria De Rosa e condotto in studio da Sergio Nava. Una buona giornata a tutti. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.